Fish24. Buonasera da Marta Cagnola e da Giulia Crivelli. Questa sera, visto che siamo nei giorni in cui riaprono le scuole, parliamo proprio di scuola. Torniamo ad ascoltare la storia di un uomo di 48 anni che ha scoperto di saper leggere. Cosa c'è di strano? C'è di strano soprattutto il fatto che quest'uomo fa il professore e ha fatto il professore per anni senza saper né leggere né scrivere. La storia è strana ma vera e ce l'ha raccontata il San Diego News. For most of his life, John Corcoran was a scribe. As a kid, he painstakingly copied letters on the chalkboard, but the words he wrote had no meaning. I can remember when I was 8 years old, saying my prayers at night, saying, "Please God, tomorrow, when it's my turn to read, please let me read." When he entered high school, he started cheating, like a man with an addiction, covering up with lies and deceit. I couldn't read words, but I could read the system and I could read people. Whether it was stealing tests or convincing friends to complete his assignments, Corcoran managed to graduate high school and earn an athletic scholarship to Texas Western College. There, his cheating continued. Questo è l'inizio della storia, un inizio un po' particolare. Questa vita di John Corcoran è la vita di un uomo che non riesce a leggere, non riesce a scrivere, purtroppo succede a molte persone, ma lui comincia a imbrogliare. E che succede? Si dice, for most of his life he was a scribe, cioè è stato uno scriba, esattamente come in italiano, nel senso che lui semplicemente copiava quelli che per lui erano segni, non avevano significato come lettere o come parte di una parola. E però la cosa gli pesava naturalmente, when he remembers when I was 8 years old, quando aveva 8 anni, I remember saying my prayers, cioè mi ricordo che dicevo le mie preghiere e dicevo, please God, when it's my turn to read, quando tocca a me leggere, fa che io sia capace di leggere. E naturalmente purtroppo le cose non funzionano così. I remember saying, quindi I remember vuole il verbo poi col ing, e appunto se si può fare, non so, si può dire di qualsiasi cosa. I remember playing with my sister, mi ricordo che giocavo con mia sorella, oppure che appunto dicevo le mie preghiere, questo è esattamente come in italiano. Allora lui ha cominciato a imbrogliare. To cheat, cheat è un verbo molto carino, vuol dire imbrogliare, ma vuol dire anche tradire, perché se una persona cheats on his girlfriend vuol dire che tradisce la sua fidanzata. I cheaters, credo che ci sia anche un reality dove si va a vedere chi ha tradito chi, come ha fatto e perché. Comunque to cheat, per esempio, tipicamente vuol dire imbrogliare a scuola, quindi per esempio appunto copiare. E cosa faceva? Diceva bugie? Come faceva a copiare? Come, giustamente dice la giornalista di San Diego News, come una persona che ha una dipendenza, una addiction, started covering up with lies and deceit. Cover up vuol dire nascondere, ma proprio nel senso di portare sulla strada sbagliata, di ingannare, ecco, proprio di ingannare. Quindi ingannare con bugie e deceit, che di nuovo vuol dire inganno, mancanza di trasparenza o di onestà. E come faceva coi compiti? Dunque, un po' li rubava, quindi stealing tests, cioè rubava i compiti già fatti dai suoi amici. Naturalmente qui bisogna capire che la scuola, la high school negli Stati Uniti, soprattutto i compiti sono molto diversi, sono spesso dei multiple choice o dove si deve semplicemente mettere una X sulla risposta giusta, quindi è anche più facile copiare. Beh, insomma, lui era sicuramente, aveva dei problemi con la lettura, ma era piuttosto ingegnoso ed è riuscito alla fine addirittura a diplomarsi. He managed to graduate, quindi to manage to vuol dire riuscire a, ma lo possiamo usare per qualsiasi cosa, quindi I managed to eat before going to the movies, sono riuscito a mangiare qualcosa prima di andare al cinema. E qui addirittura lui è riuscito a graduate. Graduate vuol dire fare la maturità, vuol dire anche prendere una laurea, però in generale appunto passare questo un esame finale di un ciclo di studi, in questo caso della scuola media superiore. Ed è riuscito anche a ottenere cosa? A guadagnarsi una scholarship, to earn a scholarship, guadagnarsi una borsa di studio, per la precisione un athletic scholarship, cioè una borsa di studio legata alle sue capacità come atleta, sicuramente non appunto a quelle come poeta o come scrittore, perché non dava grandi esempi in questo senso. Io so che adesso state pensando che è una storia inventata e che è un film, no? La storia è verissima perché John Corcoran ha anche un suo sito, sito che è johncorcoranfoundation.com, ma sentiamo come prosegue il racconto del San Diego News. He graduated with a bachelor's degree in education, still unable to read or write. Ironically, Corcoran's next decision landed him back in the classroom. He got a job during a teacher shortage. They gave almost all the college graduates in education a job. For 17 years, Corcoran taught high school for the Oceanside School District. He relied on teachers' assistants for help and oral lesson plans. But at the age of 48, a change of heart. It's embarrassing for me and it's embarrassing for this nation. John Corcoran studied and worked with a tutor here at the Carlsbad City Library. Within a year, he was able to read and write at a sixth grade level. Beh, comunque è una storia di talento, una storia certo di furbizia, di arte di arrangiarsi, ma anche di estrema intelligenza, secondo me. Cos'è successo dopo che si è diplomato John Corcoran? Quindi non solo si è diplomato dal liceo, non soltanto si è guadagnato una scholarship, una borsa di studio per un college, è anche riuscito a graduate di nuovo, quindi a uscire dal college, a superare l'esame finale del college con un bachelor degree. Bachelor, oltre a scapolo, vuol dire anche un appunto un... Non è corretto tradurre con laurea, comunque diciamo con una specie di master in un qualcosa, perché è sempre una specializzazione, anche se negli anni di college si studiano tante cose. In questo caso qui, ironically, l'ironia, un bachelor in education. Incredibile, still unable to read or write, non era ancora capace di leggere e scrivere. Continuava semplicemente a copiare appunto i segni delle lettere quando capitava, oppure riusciva a non leggere mai e quindi magari a usare altri metodi anche per insegnare. Sarà mica diventato un insegnante? Ironically, his next decision landed him back in the classroom. To land somebody back in vuol dire proprio letteralmente far riatterrare qualcuno in un posto, perciò riportare qualcuno in un posto. E dove? In the classroom, cioè in un'aula scolastica. Perché lui ha avuto un po' questa, naturalmente il caso ci mette sempre lo zampino, quando lui ha avuto il suo bachelor degree in education c'era un teacher shortage nella nazione, cioè c'era una mancanza. Di insegnanti. Incredibile, ha insegnato per 17 anni e però abbiamo detto che a 48 anni è successo qualcosa. Sì, lì c'è stato un change of heart, che vuol dire appunto letteralmente un cambiamento di cuore, ma che vuol dire sostanzialmente, al di là della traduzione letterale, che c'è stato un cambiamento brusco, che è qualcosa che è cambiato dentro di lui, cioè si è finalmente deciso, at the age of 48, che era ora di be able to read and write. Cioè, ha imparato a leggere e scrivere, incredibile. Ha imparato con un programma di una local library, library non è libreria ma biblioteca, e con un tutor, naturalmente, che lo ha aiutato. Beh, incredibile la storia di John Corcoran, dovrebbero fare un film. Intanto lui ha aperto il suo sito johncorcoranfoundation.com, così potete controllare che non vi abbiamo detto né noi né la giornalista del San Diego News cose false. Ma c'è una storia che ci può davvero dare un'indicazione su quanto talvolta l'abilità nel leggere e nello scrivere, che purtroppo è legata anche talvolta a dei problemi molto seri, invece non sia un ostacolo nella vita di tutti i giorni. Ne parla questo articolo del New York Times che noi riascoltiamo nel nostro CD di English 24 in edicola. It has long been known that dyslexics are drawn to running their own businesses, where they can get around their weaknesses in reading and writing and play on their strengths. But a new study of entrepreneurs in the United States suggests that dyslexia is much more common among small business owners than even the experts had thought. The report, compiled by Julie Logan, a professor of entrepreneurship at the Cass Business School in London, found that more than a third of the entrepreneurs she had surveyed, 35%, identified themselves as dyslexic. Beh, intanto stiamo parlando di dislessia, così si dice in inglese, che non rappresenta necessariamente un ostacolo, ma come tutte le difficoltà nella vita può essere un asso nella manica. È incredibile, eppure bisogna pensarci. Sì, dice la giornalista, it has long been known, quindi to be known for a long time, vuol dire si sa da molto tempo, quindi esattamente come diciamo noi, che people with dyslexia are drawn to running their own businesses, to be drawn to something or to be drawn to doing something. Quindi vuol dire essere letteralmente tirati a fare qualche cosa, cioè sono spinti, potremmo anche tradurre, to run a business vuol dire gestire un'impresa, quindi a gestire un'impresa in prima persona. Perché sono abituati a dover davvero arrangiarsi e risolvere i problemi. Preferiscono confrontarsi con se stessi e quindi get around their weaknesses in reading and writing, quindi to get around, letteralmente girare intorno, perciò superare le loro debolezze, weakness e debolezza, weak, debole, weakness, debolezza, nel, ovviamente sappiamo, come in ogni caso di dislessia, nel leggere e nello scrivere. È chiaro che se io devo nascondere solo a me stesso che sto facendo fatica, mi vergogno meno o comunque mi causa meno problemi che se invece lo devo fare di fronte a altre persone. Quindi diventano imprenditori e fanno forza sulle loro qualità. Esatto, quindi weakness, debolezza, strength vuol dire forza, ma anche punto di forza, quindi they play on their strengths, letteralmente giocano sui loro punti di forza, possiamo dirlo anche in italiano, perciò anche qui, se io so esattamente e davanti a uno specchio non mi vergogno, posso dirlo quali sono le, perché sono imprenditore di me stesso, non rispondo a nessuno, so benissimo quali carte posso giocarmi. C'è addirittura uno studio citato da questo articolo del New York Times. Questa professoressa che insegna, diciamo, potremmo dire management, ha fatto uno studio e questo report found, cioè lo studio dimostra che more than a third of the people she had surveyed, quindi to survey vuol dire fare un sondaggio e to survey something vuol dire porre le domande del sondaggio a qualcuno o a un gruppo di persone, e ha scoperto che più di un terzo degli imprenditori si definiscono, potremmo dire in italiano, to identify themselves as dyslexics, cioè all'interno di un sondaggio dove magari si può essere anonimi e quindi sinceri, confessano di essere dislessici. Insomma, è una bella storia. Per sapere come va a finire vi rimando alla lettura, come di consueto, del nostro English 24 in edicola. Il nostro tempo radiofonico invece finisce qui. Da Marta Cagnola e Giulia Crivelli, l'augurio di una buona serata.